Ora Lydgate, come Mr. Fairbrother, sapeva molte più cose di quanto dicesse, e quando una volta si era messo a pensare ai rapporti esistenti fra Will e Dorothea, le sue congetture erano andate molto più in là dei fatti reali. Immaginò che da entrambe le parti ci fosse un sentimento appassionato e il fatto gli sembrò troppo serio per farne argomento di pettegolezzo. Ricordò come Will si era irritato quando egli aveva fatto il nome di Mrs. Kesebo e fu ancora più circospetto. Tutto sommato, le sue supposizioni, in aggiunta a ciò che sapeva per certo, accrebbero il suo senso di amicizia e di tolleranza nei riguardi di Ladislav e gli fecero capire la titubanza che lo tratteneva a Middlemarch, dopo che aveva detto che sarebbe partito. Era indice del distacco fra i pensieri di Lydgate e quelli di Rosamond il fatto che egli non si sentisse spinto a parlarle dell'argomento. In effetti, egli non aveva la certezza fiduciosa che Rosamond non avrebbe parlato con Will, e su questo punto aveva ragione. Per quanto non riuscisse a immaginare in che modo la mente di lei avrebbe operato nello spingerla a parlare. Quando Rosamond ebbe ripetuto a Lydgate la notizia comunicatale da Fred, egli disse: fa attenzione a non lasciarti sfuggire il minimo accenno a Ladislav Rosi. Potrebbe succedere che egli desse inescandescenze come se l'avesse insultato. Naturalmente è una storia penosa. Rosamond voltò il collo e si diede qualche colpetto ai capelli, assumendo un aspetto di placida indifferenza. Ma la volta successiva in cui Will arrivò, quando Lydgate era via, parlò con aria birichina del fatto che non era andato a Londra come aveva minacciato. Io so tutto, ho un uccellino che mi fa delle confidenze, disse dandosi delle assai graziose arie col capo sul lavoro che teneva alto fra le dita operose. C'è una potente calamita in questa zona. Certo che c'è, nessuno lo sa meglio di voi, disse Will con una punta di galanteria, ma in cuor suo pronto ad arrabbiarsi. È davvero l'idillio più incantevole, Mr. Kesebo geloso. E prevedendo che non ci sia nessun altro che Mrs. Kesebo abbia tanto voglia di sposare, e nessuno così desideroso di sposare lei quanto un certo gentiluomo, e quindi progettando un piano per rovinare tutto, facendole perdere il diritto alla proprietà se lei avesse sposato quel gentiluomo. E quindi, non ho dubbi che la conclusione sarà senz'altro romantica. Grandio, cosa intendete dire? Fece Will imporporandosi sulla faccia e alle orecchie, mentre ai tratti parvero mutare come se avesse avuto una scossa violenta. Non scherzate, ditemi cosa significano le vostre parole. Davvero non lo sapete? Chiese Rosamond, non più con aria giocosa e non desiderando altro di meglio che raccontare per poter evocare degli effetti. No, egli ribatté con impazienza. Non sapete che Mr. Kesebo ha lasciato scritto nel suo testamento che se Mrs. Kesebo vi sposa perde tutta la sua proprietà? Come sapete che questo è vero? Chiese Will ansioso. Mio fratello Fred l'ha sentito dire dai Fairbrother. Will si alzò con uno scatto dalla poltrona e allungò la mano verso il cappello. Oserei dire che lei ha più a cuore voi della proprietà, disse Rosamond guardandolo di lontano. Vi prego, non ne parlate più, disse Will con un rauco tono sommesso, estremamente diverso dalla sua consueta voce delicata. È un miserabile insulto per lei e per me. Poi si sedette con aria assente, guardando nel vuoto davanti a sé. Ora siete arrabbiato con me, disse Rosamond. È davvero un peccato che vogliate male a me. Vi dovreste essere obbligato per avermelo detto. E lo sono, disse Will brusco, parlando con quella specie di doppia anima che è dei sognatori che rispondono alle domande. Mi aspetto di avere notizie del matrimonio, disse Rosamond in tono scherzoso. Mai, non avrete mai notizie del matrimonio. Pronunciate queste parole con impeto, Will si alzò, tese ancora con l'aria di un sonnambulo la mano a Rosamond e se ne andò. Quando se ne fu andato, Rosamond lasciò la poltrona e si diresse verso l'altra estremità della stanza, appoggiandosi, quando vi fu giunta, contro una chiffonier e guardando fuori dalla finestra con aria stanca. Era oppressa dalla noia e da quell'insoddisfazione che nelle menti femminili si trasforma continuamente in una banale gelosia, basata su nessun diritto concreto, che nasce da nessun sentimento più profondo delle vaghe pretese dell'egoismo, eppure è capace di indurre ad agire oltre che a parlare. Veramente non c'è niente per cui valga la pena di preoccuparsi molto, disse la povera Rosamond in cuor suo, pensando alla famiglia Quellingham. E non le scriveva e che forse Tertius, quando sarebbe arrivato a casa, l'avrebbe importunata per le spese. Già, ne aveva disobbedito segretamente, chiedendo al padre di aiutarli, e questi aveva concluso con fermezza dicendo: È più probabile che sia io ad avere bisogno di aiuto. Capitolo 60. Alcuni giorni dopo, si era già alla fine di agosto, ci fu un'occasione che suscitò una certa animazione a Middlemarch. La gente, se voleva, poteva avvalersi dell'occasione di comprare, sotto i distinti auspici di Mr. Borthrop Tremble, i mobili, i libri, i quadri, che, come ognuno poteva vedere dai manifesti, erano i migliori di ogni genere, appartenenti a Edwin Larker Esquire. Questa non era una delle vendite all'asta che rivelasse un ristagno nel commercio, al contrario, era dovuta al gran successo di Mr. Larcher nell'attività di spedizioniere, che gli permetteva l'acquisto di una dimora nei pressi di Riverstone, già mobiliata in grande stile da un illustre medico di una stazione termale, in effetti arredata con tali grandi pitture costose di nudi nella sala da pranzo che Mrs. Larker si mostrò nervosa finché fu rassicurata dalla scoperta che i soggetti erano biblici. Da ciò la bella occasione per gli acquirenti, che era ben sottolineata dai manifesti di Mr. Borthrop Tremble, a cui la conoscenza della storia dell'arte consentiva di affermare che l'arredamento del salone, da essere venduto senza un prezzo minimo fissato, comprendeva il lavoro d'intaglio di un contemporaneo di Gibbons. A quei tempi, a Middlemarch, una grande vendita era considerata una specie di festa. C'era un gran tavolo stracolmo dei migliori spuntini freddi, come un funerale di gran classe, ed era offerta l'opportunità di quelle generose e allegre libagioni che potevano portare a generose e allegre offerte per articoli indesiderabili. La vendita di Mr. Larker offriva ancora maggiori attrattive col bel tempo, perché la casa era situata proprio in fondo alla città, con annessi giardini e scuderie, in quella piacevole via d'uscita da Middlemarch chiamata la London Road, che era anche la strada che portava al nuovo ospedale e all'appartata residenza di Mr. Bulstrode, nota come The Strubs. In breve, la vendita all'asta era come una fiera e attirava ogni classe di persone con del tempo libero. Per alcuni che rischiavano a fare delle offerte per alzare i prezzi, era quasi come scommettere alle corse. Il secondo giorno, in cui si doveva vendere il miglior mobilio, c'erano tutti, persino Mr. Thesiger, il rettore di St. Peter, aveva fatto una breve comparsa con l'intenzione di comprare il tavolo intagliato e si era trovato gomito a gomito con Mr. Bembridge e Mr. Horrock. C'era una cerchia di signore di Middlemarch sistemata a sedere attorno al gran tavolo della sala da pranzo, dove Mr. Borthrop Tremble era assiso con cattedra e martello. Ma le file in fondo, per lo più di volti maschili, variavano spesso per l'entrata e l'uscita sia dalla porta principale che dall'ampio bovindo che si apriva sul prato. Tutti, quel giorno, non comprendevano Mr. Balstro, la cui salute non poteva sopportare affollamenti e correnti d'aria senza risentirne. Ma Mrs. Balstro aveva particolarmente desiderato di venire padrona di un certo quadro, una cena a Emmaus che il catalogo attribuiva a Guido, e all'ultimo momento, prima del giorno della vendita, Mr. Balstrow era passato dall'ufficio del Pioneer, di cui ora era il primo pro dei proprietari, per chiedere a Mr. Ladislav il gran favore di prestarsi gentilmente con la sua eccezionale conoscenza di quadri in favore di Mrs. Balstrow e giudicare il lavoro di quella particolare pittura. Se, aggiunse il banchiere scrupolosamente educato, la vostra presenza alla vendita non interferirà con i vostri preparativi per la partenza, che so imminente. Questo inciso sarebbe potuto sembrare alquanto sarcastico all'orecchio di Will se si fosse trovato nello stato d'animo di far caso a un simile sarcasmo. Questo alludeva a un accordo raggiunto molte settimane prima con i proprietari del giornale, con cui si riconosceva che sarebbe stato libero, qualsiasi giorno avesse voluto, di trasferire la direzione al vice direttore, che stava addestrando, dato che egli desiderava lasciare Middlemarch. Ma le vaghe visioni dell'ambizione sono deboli contro la comodità di fare ciò che è abituale o piacevolmente gradito, e tutti conosciamo la difficoltà di mettere in atto una risoluzione quando segretamente desideriamo che si riveli inutile. In stati d'animo del genere, la persona più incredula è in cuor suo predisposta al miracolo. Impossibile concepire come il nostro desiderio possa venire esaudito. Eppure, cose fantastiche sono successe. Will non confessò a se stesso questa debolezza, ma esitava. A che serviva andare a Londra in quella stagione? Gli uomini di rugby che si sarebbero ricordati di lui non c'erano, e per quanto riguardava gli iscritti di carattere politico, avrebbe preferito continuare sul Pioneer per alcune settimane. Al momento attuale, tuttavia, quando Mr. Balstrow gli stava parlando, era sia fortemente deciso a partire, sia fortemente deciso a non andarsene, finché non avesse visto ancora una volta Dorotea. Perciò rispose che aveva dei motivi per rimandare la propria partenza e che sarebbe stato felice di andare alla vendita. Will era di umore provocatorio, poiché aveva la coscienza profondamente rosa dal pensiero che la gente che lo guardava probabilmente era a conoscenza di un fatto, che equivaleva all'accusa nei suoi confronti di essere un tipo con dei propositi spregevoli che sarebbero stati frustrati da una disposizione testamentaria. Come la maggior parte di coloro che si definiscono liberi rispetto alle distinzioni convenzionali, egli era pronto ad attaccar briga in modo improvviso e rapido con chiunque potesse alludere che gli aveva dei motivi personali per definirsi tale, che c'era un qualcosa nel suo carattere, nel suo portamento, nel suo sangue, a cui egli conferiva la maschera di un'opinione. Quando aveva un'impressione irritante di questo genere, era solito aggirarsi per giorni con uno sguardo di sfida, col colore che gli mutava nella pelle trasparente, come se fosse sul chi vive, in guardia contro qualcosa contro cui doveva scagliarsi. Questa espressione si notò in modo particolare alla vendita, e coloro che l'avevano visto solo in stati d'animo di gentile stranezza o di luminosa gioia sarebbero stati colpiti dal contrasto. Non dispiaceva gli fosse offerta questa occasione per apparire in pubblico di fronte alle tribù indigene di Middlemarch, i Toller e gli Akbat e compagnia che lo guardavano dall'alto in basso come un avventuriero ed erano in uno stato di brutale ignoranza sudante, i quali scarrivano il suo sangue polacco ed erano essi stessi di una stirpe assai bisognosa di ibridazione. Si trovava in un posto ben in vista, non lontano dal banditore, con un indice in ciascun taschino e la testa gettata all'indietro. Disegnoso di parlare con altri, sebbene fosse stato cordialmente accolto come connoisseur da Mr. Trumbull, il quale era attivissimo nell'esercizio delle proprie grandi doti. E certo, fra tutti coloro la cui attività richieda di esibire le loro capacità oratorie, il più felice è un prosperoso banditore di provincia, intensamente consapevole delle proprie battute e del proprio sapere enciclopedico. Alcune persone silenziose dal sangue acido potrebbero trovare da ridire sull'insistere costantemente sui meriti di tutti gli articoli, dagli stivaloni ai berghe. Ma Mr. Borthrop Tremble aveva un liquido cordiale nelle proprie vene. Era un ammiratore per natura e gli sarebbe piaciuto avere l'universo intero sotto la sua mazza, perché pensava che grazie alle proprie raccomandazioni avrebbe raggiunto una cifra più alta. Per il momento il mobilio del salotto di Mrs. Larker gli bastava. Quando Will Ladislaw era entrato, un secondo parafuoco, dimenticato al suo posto, a quanto era stato detto, all'improvviso attirò l'entusiasmo del banditore, che lo fece circolare in base all'equo principio di lodare maggiormente quelle cose che avevano maggiormente bisogno di essere lodate. Il parafuoco era di acciaio brunito, con molto lavoro di traforo di forma ogivale e un bordo tagliente. «Ora, signore», gli disse, «mi appellerò a voi». Ecco un parafuoco che a qualsiasi altra asta ben difficilmente sarebbe stato offerto senza riserve, essendo, come posso dire, per qualità di acciaio e stranezza di disegno un genere di cosa. A questo punto Mr. Tremble abbassò la voce, che si fece lievemente nasale, e si assestò ai lineamenti col dito sinistro, che potrebbe non accordarsi con dei gusti ordinari. Permettetemi di dirvi che fra poco questo stile di fattura sarà l'unico in voga. Mezza corona, avete detto? Grazie. Partiamo da mezza corona per questo caratteristico parafuoco e sono informato in modo particolare che lo stile antico è assai ricercato negli ambienti altolocati. 3 scellini? 3 e 6? Tienilo bene in alto, Joseph. Guardate, signore, la purezza del disegno. Per conto mio non ho dubbi che sia stato fabbricato nel secolo scorso. 4 scellini, Mr. Mosey? 4 scellini. Non è una cosa che metterei nel mio salotto, disse Mrs. Mosey in modo da farsi sentire per mettere in guardia il marito avventato. Mi meraviglio di Mrs. Larker. Ogni benedetta testa di bambino che ci cadesse contro verrebbe tagliata in due. Il bordo è come un coltello. Verissimo, ribatté Mr. Trumbull rapido. È di un'utilità rara avere a portata di mano un parafuoco che tagli. Se avete bisogno di tagliare una stringa di corame o un pezzo di cordone e non avete un coltello a portata di mano. Più di un uomo è stato lasciato morire impiccato perché non c'era un coltello per tagliargli il capestro. Signori, ecco un parafuoco che se aveste la disgrazia di impiccarvi, taglierebbe il capestro in 4 e 4 8 con sorprendente celerità. 4 e 6? 5? 5 e 6? Una cosa appropriata per una stanza da letto in più dove ci sia un baldacchino e un ospite un po' fuori di senno. Seicellini? Grazie, Mr. Cleantap. Lo vendiamo Seicellini? Lo vendiamo? Aggiudicato! Lo sguardo del banditore, che si era girato intorno con un'attenzione soprannaturale a ogni segno di offerta, a questo punto si abbassò sulla carta davanti a sé e anche la sua voce si abbassò, assumendo un tono di indifferente comunicazione mentre diceva: Mr. Cleantap? Stai pronto, Joseph? Valeva la pena spendere 6 scellini per avere un parafuoco su cui si potrebbe sempre dire una battuta? Disse Mr. Clintup, ridendo piano con aria di scusa rivolta al suo vicino. Era un timido, anche se distinto arboricoltore, e temeva che i presenti potessero considerare la sua offerta una pazzia. Frattanto, Joseph aveva portato un vassoio pieno di piccoli articoli. Ora, signore, disse Mr. Tremble prendendo uno degli articoli, questo vassoio contiene degli articoli assai ricercati, una collezione di sciocchezze per il tavolo del salotto e ha delle sciocchezze assommano le cose umane. Nulla è più importante delle sciocchezze. Sì, Mr. Ladislav, sì, fra un attimo. Ma fa passare il vassoio, Joseph. Questi bijou devono venire esaminati, signore. Quello che ho in mano è un ingegnoso congegno, una sorta di rebus pratico, posso definirlo. Ecco, vedete, sembra un elegante astuccio a forma di cuore. Portatile da tasca. Ecco, di nuovo diventa uno splendido fiore doppio, un ornamento per il tavolo. Ed ora Mr. Tremble fece trasformare il fiore con sorpresa dei presenti in sfilze di foglie a forma di cuore. Un libro di indovinelli, non meno di 500, stampati in un rosso stupendo. Signori, se fossi meno coscienzioso, non vorrei che offriste una somma alta per questo lotto. Vorrei acquistarlo io stesso. Cosa può promuovere l'allegria innocente? Posso dire la virtù più di un buon indovinello? Frena il linguaggio sguaiato e lega un uomo alla compagnia delle donne raffinate. Questo stesso ingegnoso articolo, senza l'elegante scatola di domino, il cestino delle carte, eccetera, da solo dovrebbe portare il lotto a un prezzo elevato. Tenuto in tasca potrebbe fare di uno il benvenuto in ogni cerchia. 4 scellini, signore? 4 scellini per questa eccezionale collezione di indovinelli con tutto il resto. Ecco un esempio. Cosa bisogna compitare, Petunia, perché piaccia alle donnole? Risposta? Pecunia. Sentito? Donnole? Petunia? Pecunia. Questo è un divertimento per aguzzare l'intelletto. Ha un pungiglione. Ha quello che chiamiamo satira arguzia senza indecenza. 4 e 6? 5 scellini. Le offerte si susseguirono con rivalità crescente. Mr. Boyer era il re degli offerenti e questo era troppo esasperante. Non poteva permetterselo e voleva soltanto impedire a qualsiasi altro uomo di fare bella figura. La corrente trascinò con sé anche Mr. Horrock, ma questo suo modo di esprimere un'opinione con un sacrificio esiguo della sua espressione neutrale faceva sì che l'offerta difficilmente avrebbe potuto essere riconosciuta per sua se non fosse stato per le amichevoli imprecazioni di Mr. Bembridge, che voleva sapere cosa le avrebbe fatto Horrock di quella maledetta mercanzia, adatta solo a merciaioli caduti in quello stato di perdizione che il commerciante di cavalli riconosceva così frequentemente la maggioranza delle esistenze terrene. Il lotto venne finalmente aggiudicato per una guinea a Mr. Spilkins, un giovane spilungone del luogo, che sperperava il suo spillatico e avvertiva la mancanza di memoria in tema di indovinelli. Andiamo, Tremble, è un peccato. Avete messo in vendita delle cianfrusaglie per vecchie zitelle, mormorò Mr. Toller avvicinandosi al banditore. Voglio vedere come vanno le stampe e devo andarmene fra poco. Immediatamente, Mr. Toller. Era solo un atto di benevolenza che il vostro cuore avrebbe approvato. Joseph, svelto con le stampe, lotto 235. Ora, signori, voi che siete dei connoisseur, state per avere un'offerta eccezionale. Ecco un'incisione del Duca di Wellington, circondato dal suo stato maggiore sul capo di Waterloo, e nonostante avvenimenti recenti abbiano, per così dire, avvolto in una nube il nostro grande eroe, avrò l'audacia di affermare, poiché uno che svolge la mia professione non si deve lasciare trascinare dai venti della polemica, che un soggetto più bello di stampo moderno, appartenente al nostro tempo, alla nostra epoca, l'intelletto dell'uomo avrebbe potuto difficilmente concepirlo. Gli angeli avrebbero potuto forse, ma non gli uomini, signori, non gli uomini. Chi l'ha dipinto? Chiese Mr. Powdrell, assai impressionato. È una prova di stampa prima della firma, Mr. Powdrell. Il pittore è ignoto, rispose Tremble, ansimando un po' le ultime parole, dopodiché increspò le labbra e si guardò attorno. Offro una sterlina, disse Mr. Powderell con un tono di emozione decisa, come di uno pronto a gettarsi nella mischia. Vuoi per soggezione o per compassione, nessuno offrì più di lui. Dopo vennero due stampe olandesi, di cui Mr. Toller era stato bramoso di impossessarsi, e dopo che se le fu assicurate se ne andò. Altre stampe e in seguito alcune pitture vennero vendute a eminenti cittadini di Middlemarch, venuti col desiderio preciso di acquistarle, e nel pubblico si notò un più attivo movimento di entrate e uscite. Alcuni che avevano comprato ciò che volevano se ne andavano, altri entravano e per la prima volta o dopo una visita temporanea ai rinfreschi che erano disposti sotto il padiglione sul prato. Era questo padiglione che Mr. Bembridge aveva intenzione di comprare e sembrava gli piacesse andare a dare un'occhiata dentro di frequente, come pregustandone il possesso. L'ultima volta che tornò, lo osservarono portare con sé un nuovo compagno, estraneo a Mr. Tremble e a chiunque altro, il cui aspetto tuttavia portò a supporre che fosse un parente del commerciante di cavalli, anch'esso dedito al piacere. I grandi basettoni, l'imponente spavalderia e il dondolare della gamba conferivano alla sua figura un aspetto che faceva colpo, ma il vestito nero, piuttosto malandato ai bordi, indussero alla deduzione dannosa che non potesse permettersi tutto quel piacere che desiderava. «Chi è che hai pescato, Ben?» chiese Mister Oroch a parte. «Chiediglielo tu», ribatté Mister Bembridge. «Ha detto che era appena arrivato dalla strada». Mister Orrock diede un'occhiata all'estraneo, che appoggiava la schiena al bastone con una mano, usando lo stuzzicadenti con l'altra, e guardandosi attorno con una certa irrequietezza, evidentemente per il silenzio impostogli dalle circostanze. Alla fine venne presentata la cena a Emmaus, con immenso sollievo di Will, perché stava diventando così stanco della cerimonia che era arretrato un po' e si era appoggiato con la spalla contro il muro proprio dietro il banditore. Adesso si fece di nuovo avanti e lo sguardo colse l'estraneo, il quale con una sua certa sorpresa lo fissava in modo marcato. Ma l'attenzione di Will fu immediatamente richiamata da Mr. Tremble. «Sì, Mr. Ladislav, sì, questo vi interesserà come connoisseur, penso. Fa un certo piacere», proseguì il banditore con crescente fervore, «avere un quadro come questo da mostrare a una riunione di dame e gentiluomini. Un quadro che vale qualsiasi somma per una persona, i cui mezzi siano allo stesso livello della sua capacità gi di giudicare. È una pittura della scuola italiana del celebre Guido, il più grande pittore del mondo, il maggiore dei vecchi maestri, come sono chiamati. Secondo me, perché sapevano un paio di cose in più della maggioranza, in possesso di segreti ormai perduti per il grosso dell'umanità. Lasciate che vi dica, signori, che ho visto più di un quadro dei vecchi maestri e non sono tutti all'altezza di questo. Alcuni sono più scuri di quanto potrebbe piacere e non soggetti da famiglia. Ma ecco qui un Guido. Sono la cornice, vale sterline, che qualsiasi signora potrebbe essere orgogliosa di appendere. Un soggetto adatto per quello che chiamiamo un refettorio in una pia istituzione. Se qualche signora della municipalità desiderasse mostrare la propria munificence. Voltarlo un po', signore? Sì, Joseph, voltalo un po' verso Mr. Ladislav. Mr. Ladislav, essendo stato all'estero, conoscete il valore di queste cose, vedete? Tutti gli occhi furono per un attimo rivolti verso Will, che disse con freddezza: 5 sterline! Il banditore sbottò in una violenta protesta. Mr. Ladislav, solo la cornice ne vale tante. Signore e signori, per il buon nome della città, mettete che in seguito si scoprisse che una gemma dell'arte è stata fra di noi in questa città e che nessuno a Middlemarch ne è rimasto colpito. 5 guinee, 5 sterline, 7 scellini e sei... 5 e 10. Zitte, signore, zitte, è una gemma e come dice il poeta, ben più di una gemma è stata comprata a un prezzo irrisorio perché il pubblico non se ne intenda. Perché veniva offerta in circoli dove c'era... Avevi intenzione di dire scarsa sensibilità, ma no. 6 sterline, 6 guinee. Un guedo di prim'ordine ha giudicato 6 guinee. È un insulto alla religione, signore. Ci coinvolge tutti come cristiani, signori, che un soggetto come questo sia giudicato a una cifra così bassa. 6 sterline e 10, 7. L'offerta era animata e Will continuò a prendere parte ad essa, ricordando che Mrs. Balstrow desiderava assai avere quel quadro e pensando di poter spingere il prezzo fino a 12 sterline. Ma gli fu aggiudicato a 10 guinee, al che egli si fece strada verso il bovindo e uscì. Volle andare sotto il padiglione per prendere un bicchiere d'acqua, poiché era accaldato e aveva sete. Non c'erano altri, e e chiese alla donna che serviva di portargli dell'acqua fresca, ma prima che la donna se ne fosse andata, rimase irritato nel vedere entrare il florido estraneo che lo aveva fissato.